la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì 28 di febbraio, siamo alla fine del mese, la puntata di oggi è un prosieguo per chi era ascoltato stamattina un po' del tema che ha toccato già Alessandro Milan stamattina parlando dell'atteso provvedimento del Consiglio dei Ministri che si è tenuto in tarda mattinata sul Salva Roma. Ecco, il provvedimento è stato reiterato, era un Consiglio dei Ministri che doveva anche varare la lista dei sottosegretari e è stato preceduto al Salva Roma, come sapete, da molte polemiche, perché il sindaco di Roma Marino, di fronte alla seconda caduta del decreto, aveva usato dei toni che personalmente mi hanno dato il voltastomaco, facendo il masaniello, per così dire, cioè dicendo che se non veniva immediatamente reiterato lui bloccava i servizi pubblici della città, il trasporto, la raccolta di rifiuti, eccetera eccetera eccetera. Secondo me toni che da un sindaco sono intollerabili, per di più in presenza del secondo salvataggio della capitale dopo quello del 2008, e tra 2008 e oggi sono 20 miliardi, ragazzi. Nel 2008 ci si inventò una amministrazione commissariale parallela in cui mettere i debiti, era Alemanno all'epoca il sindaco appena arrivato al centrodestra, che naturalmente diceva sono i debiti fatti dalla sinistra prima di me. Adesso il sindaco Marino, sinistra, ha fatto la stessa cosa con Alemanno per un 800 milioni circa. Il Consiglio dei Ministri si è concluso con la reiterazione del provvedimento. Da quello che abbiamo capito, perché bisogna vedere il testo, in ogni caso il sottosegretario Graziano Del Rio ha detto che il testo sulla richiesta che noi avevamo avanzato, cioè che vi fossero delle condizionalità che spingessero il sindaco di Roma al secondo salvataggio in 5 anni, a dover intervenire sulle municipalizzate, sulle piante organiche, in presenza di piaghe evidenti da molti anni a Roma, come l'ATAC, l'AMA, un numero di dipendenti che è il record in Europa e così via. Ecco, di fronte a questo punto delicato, il sottosegretario Graziano Del Rio ha detto alla fine del Consiglio dei Ministri: abbiamo riconfermato il testo dell'emendamento di maggioranza, un emendamento presentato dal PD, nel quale erano respinte invece le richieste esattamente di sottoporre i nuovi aiuti, alla condizione che però il bilancio di Roma tornasse nel più breve tempo in equilibrio ordinario, cosa che non è anche con gli aiuti, dice la ragioneria di Roma, quindi un ufficio del comune, non lo dicono da terzi esterni, attraverso l'intervento anche nel perimetro delle municipalizzate delle piante organiche. Invece il decreto su questo dà ragione al sindaco Marino. E allora, siccome io resto convinto del fatto che si tratti di un errore, e non si tratta di pregiudizio verso Renzi, visto che per esempio sono il primo a dire che oggi Renzi ha evitato che da domani entri in vigore la web tax, dicendo come l'ho criticata in Parlamento quando lui non era membro del Parlamento ma era l'attenzione del Parlamento sottoposta alla parlamentare del PD, così, poiché doveva entrare in vigore, era nello stesso decreto del Salva Roma, da domani il Consiglio dei Ministri l'ha abrogata dicendo se ne parla solo in sede europea. Ottima scelta, come anche nella lista dei sottosegretari ci sono buone scelte. Per esempio, io sono felice del fatto che una voce che avete già sentito in questi mesi a questa trasmissione, quella di Enrico Zanetti, commercialista di professione, ex direttore del giornale online dell'Ordine dei Commercialisti e durissimo sui temi della lotta di un'amministrazione fiscale che va trasformata da ostile al contribuente, va resa amica del contribuente. Io sono felice che sia stato nominato per esempio sottosegretario al Ministero dell'Economia, potrà fare molto bene e io ci faccio conto. Detto questo, secondo me invece sul decreto, se è come dice Del Rio, è una sconfitta, perché è l'ennesima dimostrazione che non ci sono segnali forti ad amministrazioni che vengono salvate, e vengono salvate discrezionalmente, perché voglio vedere adesso Renzi come fa a evitare il salvataggio anche per Napoli, che per oltre 1 miliardo col sindaco De Magistris chiede esattamente questo, dice avete salvato 2 volte Roma, perché Napoli no? E allora perché però altri capoluoghi di comuni sono andati regolarmente in default senza minacciare insurrezioni civili per le strade e con lo scatto automatico delle procedure di maggiorazione massima di tutte le entrate di dismissioni che sono previste dal testo unico enti locali, visto che capoluoghi di questo tipo esistono? E come? Per esempio Alessandria, che ci andò dritta filata nel 2012, e per esempio Caserta. Ecco, allora io chiedo a voi in ascolto cosa ne pensate di questo nuovo decreto che risalva Roma, per così dire, salvando esattamente poi l'AMA, l'ATAC, cioè l'AMA, di cui abbiamo saputo dall'amministratore delegato che su 7.800 dipendenti ci sono dei giorni in cui persino 1.000 non si presentano su 7.800 al lavoro, l'ha detto l'amministratore delegato, o l'ATAC che malgrado 3 miliardi di contributi pubblici in questi ultimi anni ha continuato a perdere 700 milioni e che una volta raccolte tutte le risorse della sua operazione biglietteria resta col 55% dei suoi costi ordinari scoperti tra personale, carburante e tutto il resto. Non bisogna intervenire qua perché, come ha detto il sindaco, sarebbero gli amici dei poteri forti privati quelli che vorrebbero intervenire in queste cose, che sono inefficienti, capite? Inefficienti. Allora, abbiamo deciso di chiedere che cosa ne pensa di questi interventi così discrezionali, qua sì e reiterati nel tempo e lì no, esattamente al sindaco di uno dei capoluoghi che è stato interessato invece dalla procedura di default senza fiatare. Ed è con noi per questo il sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa. Grazie sindaco di essere con noi. Grazie, buongiorno. Allora, io naturalmente so che un sindaco non può essere polemico come sono io, però per me è obbligatorio chiedere, lei cosa pensa di fronte alla reiterazione di questi salvataggi rispetto a un'amministrazione che invece deve affrontare problemi molto pesanti, che ci spiegherà ad Alessandria e che poi anche per lei come sindaco eletto nel 2012, cioè a fatti avvenuti, in realtà è anche poi un peso personale. Ricordo a chi ci ascolta, il sindaco di Alessandria nella traguardatoria annuale del Sole 24 Ore 16 Popolari, e in fondo a tutti, ma te credo con quello che si trova a dover amministrare, capite? Ecco, allora che ne pensa di questo bis del salvataggio romano? Ma guardi, il tema è come attuiamo misure che trattino i cittadini in modo equanime, perché un cittadino di Roma non è diverso da uno di Alessandria, non è che possa avere qualcosa in più rispetto a un cittadino di Alessandria. Qui non si tratta di valorizzare o meno la capitale o il peso specifico di un sindaco, mi rendo conto che la capitale è la capitale, così come Napoli è Napoli e Venezia è Venezia. E naturalmente il peso specifico di Marino quando minaccia alcune cose non è come diverso, il sindaco di Alessandria, e quindi questo è un dato oggettivo, però che però è come dire, signor sindaco, che quindi ci sono grandi città, esatto, che ma questo è, hanno una specie di regime separato da questo, ecco, punto. Però il problema è l'uguaglianza dei cittadini. Allora, i cittadini di Alessandria che hanno subito il peso del dissesto, poi sulle città che vanno in dissesto, in default, e da questo punto di vista mi permetto di dire che la legge sul predissesto è stata fallimentare, anzi è stato un elemento di confusione in più, altro che aiutare le città ad un piano di rientro lento, perché a Napoli si è ben visto che la legge sul predissesto ha aggravato ancora di più le condizioni perché non si sono attuate le misure di rigore che altrove invece siamo stati costretti ad attuare. Ma voi siete stati costretti, Napoli ha scelto la via, però per questo la Corte dei Conti ha anche respinto l'ultimo piano del sindaco De Magistri dicendo esatto, è irreale. Ecco, io dico che poi quando una città va in dissesto, diciamo così, non c'è solo e soltanto la responsabilità degli amministratori, perché una comunità nelle sue espressioni di rappresentanza collettiva deve porsi alcune domande. Detto ciò, però, noi ci siamo inseriti sulla linea del rigore e io ho scelto di perseguire gli obiettivi necessari al risanamento, anteponendo quegli obiettivi al consenso personale, alle opportunità politiche, alla tattica, sapendo che io sono stata eletta e i cittadini da un sindaco chiedono delle cose che rispondano alle esigenze e ai bisogni. Detto questo, so che non riequilibrare i conti e non attuare un'amministrazione rigorosa e non riconoscere gli sprechi, le inefficienze, le condizioni che la politica, non solo quella di centrodestra che ci ha portato definitivamente al default in questa città, ma anche a quelle sedimentate negli anni che hanno utilizzato le partecipate come filiere di consenso e di voti con assunzioni facili, va contrastata con misure che sono sicuramente impopolari. Io ho adottato misure molto impopolari perché ho razionalizzato liquidando alcune partecipazioni pubbliche. Ho cominciato a dire che il confronto col mercato è necessario per fare efficacia ed efficienza nei settori che tradizionalmente anche, diciamo così, la parte politica da cui provengo hanno valutato come essenziali nel rimanere pubblici. Ecco. Ho messo in cassa integrazione delle persone, ho tagliato 26 milioni di euro di spesa corrente su un bilancio che ha 90 milioni di entrate. 26 milioni di spesa corrente in un anno e mezzo naturalmente portano al blocco di alcune attività, al taglio deciso di tutte quelle voci che Marino indica come voci che un sindaco non può tagliare, pena l'idea di essere un commissario. Ecco, però se non si fanno quelle cose lì, la politica non si assume la responsabilità di scegliere, di fare le scelte anche impopolari e dolorose, ma di rimettere a posto i conti e di dire che, per esempio, faccio l'esempio di alcune delle partecipate di Alessandria, quando negli anni sono assunte persone che non sono state assunte per rendere più efficaci e efficienti i servizi, ma sono state assunte come filiera appunto di consenso elettorale, si è fatto un danno alla comunità, perché oggi, e si è fatto un danno agli stessi posti di lavoro, perché oggi per esempio l'azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, che ha 192 dipendenti, perché quei 192 dipendenti possono essere compatibili, dovrebbe esserci un fatturato di 15 milioni e un bacino d'utenza di 450.000 abitanti. Invece, un fatturato di 35 milioni e un bacino d'utenza di 450.000 abitanti. Invece quell'azienda fa un fatturato di 15 milioni e ha un bacino d'utenza di 105.000 abitanti. Allora, questo cosa vuol dire? Che quando quell'azienda era efficace e efficiente aveva meno personale negli uffici e che si è largheggiato nell'assumere. Ora, io non sono per dire adesso licenziamo i 60 che sono in più secondo questi dati che ho dato, ma sono per dire rivediamo alcune partite, razionalizziamo. Infatti io sto facendo azioni di razionalizzazione delle partecipazioni, mettendo insieme per esempio raccolta e smaltimento, cercando di fare efficienza, cercando di i partner industriali e finanziari che possano dare una prospettiva a queste aziende. Quando nell'azienda del trasporto arriviamo ad avere più ausiliari del traffico che autisti, vuol dire una sola cosa, che siccome per farlo l'autista devi passare un esame, avere competenze riguardo al trasporto e alla guida degli autobus, era più facile assumere negli ausiliari del traffico. E lì abbiamo messo in cassa integrazione 100 persone e stiamo facendo azioni pesanti. I contratti di servizio nelle partecipazioni pubbliche noi li abbiamo tagliati di più di 10 milioni di euro. Siamo passati tra il 2012 e il 2013 ad un taglio di 10 milioni di euro, cioè da 50 milioni siamo passati a 40. Allora, io le ho fatto, come è giusto, elencare alcuni esempi concreti, perché chi sta a casa e ci ascolta, o chi è al lavoro e ci ascolta, chi è in auto poi, e ci ascolta. Scusi, siamo anche intervenuti su alcune voci, cioè il costo della politica in questo comune era circa 500.000 euro all'anno, l'abbiamo portata a 95.000, no, tanto perché consulenze erano appunto. 500 milioni di chi euro, chi è in ascolto capisca. Le abbiamo in un anno portate a 10.000 e quei 10.000 sono le attribuzioni di incarichi a quegli avvocati che devono andare al Consiglio di Stato, perché l'avvocatura interna non per ha sostenere, esattamente, ecco, per sostenere per dire, il confronto le manifestazioni legato. Sono passate nei primi sei mesi del 2012, quindi precedente amministrazione, erano già arrivate a 450.000, in due anni le abbiamo portate a 10.000 euro. Allora, perché chi è a casa e chi ci ascolta in viaggio o in auto o al lavoro capisca che, come sentite, una percentuale così elevata di intervento su una spesa corrente che resta ordinariamente in squilibrio non solo è necessaria ipoteticamente, no, il problema è che si può fare. Si può fare se si deve fare, perché ci sono procedure qua. Beh, insomma, voglio dire, però si può fare e si dovrebbe fare. Io discuto di questo decreto bis, che è esattamente sulla condizionalità, e in questo caso va detto, perché a Roma è successo con sindaci di destra dopo sindaci di sinistra, adesso risuccede con un sindaco di sinistra dopo sindaci di destra, in Parlamento a respingere gli emendamenti che erano pure interni alla maggioranza, perché ci fossero una condizionalità più esplicita di intervento anche sulle piante organiche. Ricordo a tutti voi in ascolto che il totale dei dipendenti comune di Roma più municipalizzate è superiore alle 60.000 unità, e sulle municipalizzate che perdono e sono in squilibrio ordinario, cioè ATAC, AMA e così via, è stato il PD. Il PD si è battuto contro questa cosa. Stamattina ci ha spiegato il senatore Santini, che è una persona per benissimo, eletto in Veneto, viene dalla CISL, eccetera, eccetera, però l'hanno fatto firmare a lui l'emendamento, e l'emendamento è stato riconfermato in questo decreto bis. State attenti a casa, ritocco della sovraliquota TASI, che è stato deciso dal decreto, nel decreto oggi enti locali, in cui c'è anche il Salva Roma dal Consiglio dei Ministri del Governo Renzi, non è collegato alla faccenda di Roma. E a mia memoria, io ho un conto di quante volte dall'aprile dell'anno scorso, da 10 mesi a questa parte, abbiamo ritoccato l'imposta immobiliare, da quando cominciò il drammone dell'IMU, ed è il 39esimo ritocco. Questa sovraliquota alla TASI viene perché il governo Letta aveva lasciato un problema aperto sull'invarianza di risorse per i comuni, e quindi bisognava ulteriormente ritoccare le aliquote, perché i comuni altrimenti non avevano visto confermato la promessa che il governo Letta aveva sempre loro fatto sul fatto che gli interventi di modifica dall'IMU precedente alla somma della vecchia IMU che è rimasta, più l'imposta patrimoniale e l'imposta sui servizi divisibili e indivisibili, non recasse altri minore entrate ai comuni. Per questo è stata ritoccata ulteriormente verso l'alto la sovraliquota TASI stamattina in Consiglio dei Ministri del Governo Renzi. È una coda del governo Letta. E devo dirvi la verità che dopo anche le procedure aperte dall'Unione Europea per gli aiuti di Stato, per il decreto banche, vi ricordate quanto ne abbiamo parlato, e cosa che avverrà anche per gli aiuti di Stato alle poste, per il ripiano annuale per 1 miliardo alle pensioni postali, beh, a me questa coda del governo Letta mi sembra, devo dire, non proprio questo spettacolare governo di cui si sentiva parlare sui grandi giornaloni. Siamo in ritardo, abbiamo 60 secondi ora di informazione stradale, poi torniamo con le vostre telefonate e il sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:49, 7 secondi, raffiche di SMS da chi dice: vogliamo capire meglio cosa avverrebbe se anche Roma andasse in default. Ce lo facciamo spiegare adesso dal sindaco. Ci sono ascoltatori di Alessandria che naturalmente sono uniti nel dire tutti i loro SMS, comunque la pensino politicamente, nel dire che considerano Salva Roma bis una schifezza. C'è chi dice: ma perché non far intervenire condizionalità anche sui costi della politica diretti, cioè su quanto viene corrisposto agli assessori e così via, però i più, devo dire, sono per il default a Roma. E qui non c'entra, non ci sono ascoltatori di nord, del nord contro il sud. Qui la questione, anche se avessimo il sindaco di Caserta, varrebbe allo stesso modo, cioè il segnale asimmetrico che il governo lancia: alcuni li salvo e altri no, perché ripeto, adesso lunedì parleremo del caso Napoli, perché sarà la stessa cosa di Roma. È un segnale asimmetrico che, come potete immaginare, non incoraggia le amministrazioni più inefficienti a prendere le misure come quelle che il sindaco di Alessandria vi ha appena descritto, perché basta essere un po' più grandi e essere un pochino più masanielli, e a quel punto si dice: tanto arriverà poi il salvataggio di Stato, e quindi pagheranno al massimo le aliquote non solo i cittadini di quel comune, ma ancora di più noi, visto che i trasferimenti vengono da fiscalità generale. Tutti, funziona così. È per questo che io contesto la simmetria, non perché voglia vedere da nordista Roma in ginocchio, perché non ce l'ho proprio questo problema, capite? Non vorrei proprio che l'Italia avesse la capitale come Detroit, però sta di fatto che negli Stati Uniti Detroit in fallimento ci è andato comunque, non è che l'hanno salvata perché è la storica capitale dell'auto. Da noi invece no, non funziona così. Sentiamo come la pensa Roberto da Cuneo. Prego, Roberto. Buongiorno Giannino, innanzitutto tanto di cappello al sindaco di Alessandria, approvo al 100% quelle che sono le decisioni. Anche perché poi capirà che sarà difficile ricandidarsi, perché poi purtroppo paga il prezzo personale chi fa queste cose, però santo il Dio. Perché se i cittadini di Alessandria sono intelligenti come dovrebbero esserlo, dovrebbero rieleggerla. Io francamente non so di che partito sia, indipendentemente dalla sua posizione politica, io una persona del genere, una persona la rieleggerei, perché quella persona sta facendo gli interessi della sua città, ed è quello che un sindaco dovrebbe fare. Il decreto, secondo me, salva Roma, non salva un bel niente, è un decreto a fossa Italia, perché e non ce n'era bisogno, è l'ennesima riprova che l'Italia è incapace di un minimo di onestà, e questo a livello internazionale peserà tantissimo. Io lavoro soprattutto per un gruppo tedesco, quindi ho una vaga idea di come funzionano le cose fuori e dentro. Non stupiamoci poi se non vedremo arrivare finanziamenti o investitori dall'estero in un paese che non è nemmeno in grado di accettare Ecco, Roberto, ti ringrazio. Prego. Perché facendo l'esempio della Germania, la Germania ha introdotto in Costituzione l'obbligo, non solo dal 2015 del totale pareggio, e l'hanno raggiunto prima, per il governo centrale, ma anche per le amministrazioni locali, lì è un pochino più scadenzato nel tempo, è un obbligo costituzionale, e non come noi abbiamo cambiato l'articolo 81 continuando a fare deficit. Lì è accaduto più volte che l'equivalente della Corte Costituzionale respingesse già in questi anni bilanci di amministrazione locale perché non in linea col programma di rientro. Secondo me, come vale per il governo e per noi tutti contribuenti del fisco nazionale, deve valere per tutti, perché non è che può essere asimmetrico, vale per il governo e per le tasse nazionali e non vale anche localmente. Sentiamo come la pensa Antonio, però, che mi interessa perché chiama da Roma, da quello che leggo nella segnalazione della telefonata. Prego Antonio. Sì, buongiorno, intanto anch'io tanto di cappello al sindaco di Alessandria, perché le persone così vanno ammirate. Poi volevo dire, io conosco persone che lavorano all'ATAC, a cui i manager, che gente che guadagna dai 200 ai 300 mila euro l'anno, hanno messo a confronto faccia a faccia i dipendenti, alcuni dipendenti, chiedendo la riduzione del 10% di stipendio al dipendente da uno che ne guadagna 200-250. Ora io dico che ci vuole una bella faccia tosta a fare una cosa del genere, in primo. Secondo, anche ammettendo che tutte le assunzioni clientelari eccetera che sono state fatte, ormai sono state fatte, non penso sia così semplice cacciare via quelle persone, però anche ammesso che ci fossero personale in più, ma io dico che con tutta la complessità che ha un'azienda di trasporti come l'ATAC in una città come Roma, Antonio, ma se solo avessero la capacità, Antonio, capisco quello che dice, sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto, guardi, io su questo non voglio essere equivocato, io non predico la necessità di buttare i dipendenti da livello più basso per strada. È ovvio che quando si tratta di mettere mano a squilibri di quella portata, ripeto, una roba che 3 miliardi di contributi gli arrivano in questi 4 anni, continua a perdere 700 milioni, i costi rimangono per il 55% scoperti rispetto agli incassi, e poi soprattutto da anni ce ne siamo occupati in questa trasmissione, ci sono indagini alla procura aperte sul fatto che una stretta cerchia di dirigenti che si occupa della bigliettazione avrebbe avviato una stampa di serie parallele sovrapposte di finti biglietti creando moneta, c'è un'istruttoria penale aperta da anni, e mi chiedo perché il sindaco su questo non cali la mano. Sono d'accordo con quello che ci dice Antonio, quando si tratta di ristrutturare così in profondità un'azienda che ha 12.000 dipendenti, capite che bisogna cominciare dall'alto, non dal basso, da chi ha come dirigente stipendi da 200-300 mila euro l'anno, perché è dall'alto che bisogna cambiarlo. Su questo sono totalmente d'accordo con te, non vorrei essere equivocato. Pietro da Riccione, come la pensa? Buonasera Giannino, a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, lo seguo con attenzione in questi giorni perché è veramente una cosa a dir poco infame quello che sta accadendo. Cioè, oggi come oggi le città, le amministrazioni pubbliche sono delle vere e proprie imprese. Se oggi non fanno quadrare i numeri, bisogna innanzitutto mandarli in default. Secondo, bisogna innanzitutto prendere chi li amministra e metterli sotto processo, qualcosa, indagine, perché sicuramente, adesso non voglio prendermela con Marino che comunque fa tanto il fighetto in bicicletta, radical chic o cose del genere, oggi come oggi bisogna far quadrare i conti. Non sono in grado di farli quadrare, non ci può essere sempre questo continuo assistenzialismo, è certo. Ora di finirla. Senta, senta sindaco, sì. No, devo chiudere purtroppo Pietro, sì. Perché voglio che il sindaco ci spieghi, secondo lei, ma per Roma sarebbe stato così tragico secondo lei? Sarebbe stato impegnativo come per Alessandria, però era impossibile a Roma essere sottoposta a qualcosa di analogo di quello che è capitato ad Alessandria in questi ultimi 2 anni, secondo lei? Io credo di no, per esempio noi avevamo una partecipata che aveva il presidente che prendeva 350.000 euro l'anno, io l'ho mandato via. Bravo. E ho messo 58.000 euro. Bravo. Per presidente e amministratore delegato. Bravo. Alcuni sono a costo zero. Noi abbiamo 216 milioni adesso di massa passiva, noi chiediamo di poter accendere il mutuo perché ce lo paghiamo noi in 20 anni. Ma mi sembra che lei abbia incontrato Renzi, è vero? Ha avuto sì, una risposta? Ho incontrato Renzi, adesso dovrebbe, perché io gli ho suggerito in questo decreto, anziché di mettere quelle misure, di mettere degli strumenti che consentono alle amministrazioni in modo controllato di avere quelle amministrazioni che raggiungono gli obiettivi, io ho riequilibrato il bilancio facendo vanno a quel punto incentivate con mutui più lunghi. Va bene, ci tagliano! Di Napoli ce ne occuperemo lunedì, continuate su Radio 24. La versione di Oscar.